No, non voglio cantare, voglio dire... Annihilation. Cosa credi di fare? Umorismo malsano? Signor no! E allora dimmi, che cosa significa? Vai, Annihilation! È un mondo spietato, figliolo! Bisogna tener duro fino a quando passerà questa mania della pace! Luca, Annihilation! C'è più gusto a essere italiani.